Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Edi Snaidero, una vita in cucina, di Vanni Truppi. Ci sono alcuni nomi che subito richiamano alla mente un prodotto. È come se fosse un'equazione, l'azienda X è sinonimo di un determinato prodotto. È il caso, ad esempio, delle cucine Snaidero. L'impresa è stata avviata nell'immediato dopoguerra, nel 1946, da Rino Snaidero a Maiano, in provincia di Udine. All'inizio era un laboratorio per la produzione di mobili, un laboratorio artigianale che però nel tempo si è specializzato nella costruzione industriale di cucine componibili. Oggi alla guida dell'azienda c'è Edi Snaidero, presidente e amministratore delegato dell'industria di famiglia. La storia inizia con mio padre nel dopoguerra, nel 1946, quindi inizia da zero perché non c'era, mio nonno non si occupava di mobili per cucina. Ed è una storia fatta di innovazione, di ricerca, fatta di sacrifici, fatta di volontà di acquisire nuove conoscenze, nuovi mercati. Sostanzialmente si divide in due grandi periodi: il periodo che ha visto mio padre protagonista e creatore anche prima di tutto del marchio, perché credo che nessuna azienda che si rivolge alle famiglie piuttosto che a un mercato come il nostro può diventare grande, importante, senza costruire una notorietà di marca, e questo credo sia stato il primo grande risultato ottenuto da mio padre. Poi c'è una seconda fase che ha visto protagonista la seconda generazione, che è stata quella dell'internazionalizzazione dell'azienda e del gruppo. E la crescita organizzativa, manageriale della struttura interna del gruppo con la creazione di un network di imprese europeo di cui fanno parte anche un'azienda tedesca, un'azienda francese, tre network di negozi in franchising in Belgio, in Francia e adesso, che adesso si sta espandendo anche in Cina e nell'est Europa. Insomma, un gruppo che è diventato piuttosto internazionale. Dopo la fondazione nel 1946, infatti, la Snaidero negli anni 50 si è affermata a livello nazionale come una realtà dinamica e in crescita costante. In pieno boom economico, negli anni 60, la specializzazione nei mobili per cucine, mentre nel ventennio successivo Snaidero comincia un percorso di espansione internazionale che porterà l'azienda in diversi mercati, a cominciare da quello francese, poi Olanda e Belgio. Negli anni 80 i primi insediamenti in Canada e negli Stati Uniti, a Los Angeles. Oggi il gruppo ha una forte vocazione all'export con risultati positivi anche in Asia e perfino in Medio Oriente. Una storia di successi, anche se, sottolinea Edi Snaidero, non mancano e non sono mancate le difficoltà. Credo che ogni periodo è difficile. Iniziare solo con le idee, senza soldi, senza comunque è sicuramente la parte più creativa, più dura, più difficile, dove devi avere una grande volontà, una grande capacità anche di trascinare persone, partner, fornitori, banche e così via. Poi credo comunque ogni epoca ha le sue difficoltà, e oggi le difficoltà sono aumentate in misura esponenziale, la competizione internazionale, globale, le aspettative dei propri clienti aumentano anche in modo esponenziale. Se vuoi competere devi essere capace di migliorare continuamente i tuoi prodotti, i tuoi servizi, quindi la cultura di impresa deve crescere proporzionalmente. Non credo si possa dare un voto alla difficoltà. Ogni stagione ha le sue difficoltà. Anche questa, in questa crisi, è una stagione di grande difficoltà a cui bisogna saper rispondere con le idee chiare. Se è vero che ogni periodo storico ha le proprie difficoltà, secondo Edi Snaidero, nonostante tutto, anche oggi potrebbe nascere un'azienda come la sua. un messaggio di ottimismo proprio quando la crisi economica si fa sentire in maniera più pressante. L'importante, afferma, è avere un'idea valida. Credo assolutamente di sì. Forse oggi sarebbe per alcuni versi più facile, perché comunque, pur essendo un periodo meno pioneristico, però ci sono più strutture, c'è più cultura, è più facile trovare collaboratori che ti seguono in un progetto. Certamente le difficoltà sarebbero paragonabili per quanto riguarda la volontà, la spinta, il sacrificio di mettersi in testa un'idea e essere sognatori e provare a realizzarla contro tutto e contro tutti. Il successo di un'azienda, inoltre, è dettato dal saper stare al passo con i tempi, pur nel rispetto della tradizione. Gli anni 90 sono importanti per la Snaidero, che in questo periodo ha saputo cogliere le opportunità dei mercati esteri. Prendono il via così una serie di operazioni che portano all'acquisto di marchi storici dei mobili per cucina come Arthur Bonnet in Francia, Rational in Germania e Regina in Austria. Tutti asset che nel tempo hanno dato risultati importanti. Oggi il gruppo ha un fatturato consolidato di 265 milioni di euro, 8 marchi di proprietà, 6 stabilimenti produttivi, uno in Italia, quello storico in provincia di Udine, 2 in Francia, 2 in Germania, 1 in Croazia per la produzione, questo, di semi lavorati in legno. E poi ancora 2.000 punti vendita, sedi in Libano, Florida, California, Inghilterra e 1.700 collaboratori. Un successo che, secondo Eddie Snaidero, non può prescindere dal concetto di squadra e dal buon rapporto tra azienda e lavoratori. Un'azienda è fatta di persone, tutte le aziende naturalmente sono fatte di persone. La differenza fra le buone aziende e le cattive aziende è fatta dal cuore, dalla partecipazione e dalla capacità di una squadra di persone di realizzare dei prodotti, dei servizi meglio di altri. Quindi per me la persona è al centro assolutamente del progetto aziendale. La crescita costante e l'espansione internazionale con risultati positivi hanno portato il gruppo Snaidero ad aprirsi ad un grande partner finanziario con lo scopo di rafforzarsi e di essere anche pronti a cogliere eventuali nuove opportunità di acquisizioni o comunque di crescita. Nel marzo del 2003 il gruppo Unicredito, attraverso il fondo Rolo Impresa, è entrato nel capitale del gruppo udinese con una quota di minoranza. Gestire un'azienda multinazionale, praticamente, che oggi è un gruppo, o meglio una federazione di imprese, come sottolineano nella sede centrale di Maiano, non è una cosa affatto semplice. La governance di Snaidero ha così deciso di avviare un processo di gestione aziendale ispirato da un lato all'autonomia delle singole realtà aziendali e dall'altro ad una forte visione d'insieme, di gruppo, che per gli aspetti strategici e quindi di pianificazione fa comunque capo alla casa madre. Al bando assicurano alla Snaidero la burocrazia in nome di una necessaria flessibilità. Un mix di elementi che hanno portato ad una sorta di federalismo aziendale. E del resto lo slogan di Snaidero è molte identità, un solo grande gruppo. Quando alle spalle si ha un cognome come Snaidero, con una tradizione industriale consolidata, l'ingresso nell'azienda di famiglia è in molti casi scontato. Ed è stato così anche per Eddie Snaidero, che ha preso il testimone dal padre 13 anni fa, nel 1996, quando Rino Snaidero compiva 75 anni e l'azienda festeggiava i 50 anni di attività. Una passione per l'impresa di famiglia che, assicura Snaidero, non è mai venuta meno anche nei momenti più critici. Ma naturalmente quando nasci in una famiglia imprenditoriale in cui si vive di prodotto dalla mattina alla sera, sabato e domenica compresa, ne sei influenzato, in qualche modo c'è una sorta di cultura di base che in qualche volta viene chiamata DNA. Dell'aziendale che viene trasmesso, credo che ci sia un elemento di base che ti viene trasmesso dal padre o da chi ha fondato l'azienda. E poi ci vuole però la passione di volersene occupare, di voler partecipare a questa avventura, e senza passione credo che nessuno può fare l'imprenditore. Credo che sia il mestiere che faccio, mi piace moltissimo, non saprei immaginarmi in un altro mestiere, nemmeno da piccolino ho mai pensato di fare altre cose. Forse è stato molto bravo mio padre a spingermi in questa direzione. E tra l'altro io sono il più giovane dei suoi figli, quindi è stata una scelta voluta, non assolutamente condizionata o in qualche modo obbligata. Breve pausa per noi, poi torneremo con Voci di Imprese, con la storia del gruppo Snaidero.